Zia Grazia, nonna, chiamò con voce ancora assonnata entrando nella casetta della vedova. La cucina era deserta, deserta la straducola soleggiata, deserto tutto il villaggio che nella desolazione del meriggio pareva una stazione preistorica da secoli abbandonata. Anania guardò curiosamente intorno. Nulla era cambiato. Miseria, stracci, fuliggine, un po' di cenere sul focolare, grandi tele di ragno fra le schegge del tetto. E imperatore truce di quel luogo di leggende, il lungo e vuoto fantasma del gabbano nero appeso al muro terreo. Zia Grazia, dove siete? Gridò Anania girandosi intorno. Zia Grazia! Finalmente la vedova, che era andata ad attingere acqua ad un pozzo vicino, rientrò con un malune sul capo e la secchia in mano. Era sempre la stessa, stecchita, giallastra, col viso spettrale circondato da una benda di tela sporca. Gli anni erano passati senza invecchiare oltre quel corpo già disseccato ed esaurito dalle emozioni della lontana giovinezza. Nel vederla, Anania si turbò. Un fiotto di ricordanze gli salì dalle profondità dell'anima. Gli parve di ricordare tutta un'esistenza anteriore, di rivedere uno spirito che aveva già albergato nel suo corpo prima dello spirito che lo animava al presente. Buenos dias, salutò la vedova, guardando meravigliata il bel giovine sconosciuto, e depose prima la secchia, poi il malune, lentamente, guardando sempre lo straniero. Ma appena egli sorrise, chiedendole: Ma non mi riconoscete dunque? Zia Grazia diede un grido ed aprì le braccia. Anania l'abbracciò, la baciò, la investì di domande. E Zuanne, dov'era? Perché si era fatto monaco? Veniva a trovarla? Era felice? E il figlio maggiore? E i figli del fabbricante di ceri, e questo e quell'altro, e com'era trascorsa la vita a Fonni durante quei 15 anni, e chi era il pretore, e si poteva l'indomani fare la gita sul Gennargentu? Figlio mio caro, cominciò la vedova, dandosi attorno. Ah, come trovi la mia casa? È nuda e triste, come un nido abbandonato, ma. Ma siediti dunque, siediti, lavati. Ecco l'acqua pura e fresca, vero argento puro. Lavati, lavati, bevi, riposati. Io ora ti preparerò un boccone. Ah, non rifiutare, figlio delle mie viscere, non rifiutare, non umiliarmi. Per cibarti io vorrei darti il mio cuore, ma tu accetta quel che posso offrirti. Ecco, asciugati ora, anima mia, come sei grande e bello. Dicono che tu debba sposare una ricca e bella fanciulla. Ah, non è stata stupida quella fanciulla, ma perché non mi hai tu scritto prima di venire? Ah, figlio caro, tu almeno non hai dimenticato la vecchia abbandonata. Ma Zuanne, Zuanne, insisteva Nania lavandosi con l'acqua freschissima della secchia. La vedova diventò cupa e disse: Bene, non parlarmene. Egli mi ha fatto tanto soffrire. Era meglio che egli avesse seguito l'esempio del padre. Ebbene no, non parliamone. Egli non è un uomo. Sarà un santo, come dicono, ma non è un uomo. Se mio marito sollevasse il capo dalla tomba e vedesse suo figlio scalzo, col cordone, con la bisaccia, frate mendicante e stupido, che direbbe mai? Ah, lo fustigherebbe in verità. Dove si trova ora frate Zuanne? In un convento, lontano, sulla cima d'un monte, almeno fosse rimasto nel convento di Fonni, ma no, è destino che tutti debbano abbandonarmi. Anche Fidele, l'altro figliuolo, ha preso moglie e raramente si ricorda di me. Il nido è deserto, abbandonato. La vecchia aquila ha veduto volare via i suoi poveri aquilotti e morrà sola, sola. Venite a vivere con me, disse Anania. Quando sarò dottore vi prenderò con me, nonna. E in che potrei servirti? Almeno un tempo ti lavavo gli occhi e ti tagliavo le unghie, ora invece tu dovresti fare altrettanto a me. Ma mi raccontereste delle storie a me e ai miei bambini? Ah, anche le storie non so più raccontarle adesso, sono rimbambita del tutto. Il tempo, vedi, il tempo si è portato via il mio cervello come il vento porta via la neve dai monti. Ebbene, ragazzino mio, mangia. Non ho altro da offrirti, accetta di buon cuore. Oh, questo cero è tuo? Dove lo porterai? Alla basilica, nonna, davanti all'immagine dei santi Proto e Gianuario. Viene di lontano, nonna. Me lo diede una vecchia donna sarda che vive a Roma. Anch'essa mi narrava delle storie, ma non belle come le vostre. Vive a Roma? E come fece ad andarci? Ah, io morrò senza aver veduto Roma. Dopo il modestissimo pasto, Anania cercò la guida con la quale combinò per l'indomani l'ascensione sul Gennargentu, poi si avviò alla basilica. Nell'antico cortile, sotto i grandi alberi sussurranti, sui gradini corrosi, nelle logge rovinate, entro la chiesa odorante ed umido come una tomba, dappertutto silenzio e desolazione. Anania depose il cero di zia Barbara sopra un altare polveroso, poi guardò i primitivi affreschi delle pareti, gli stucchi dorati da una luce melanconica, le rozze figure dei santi sardi, tutte le cose, infine, che un tempo gli avevano destato meraviglia e terrore. E sorrise, ma col cuore oppresso da una languida tristezza. Ritornato nel cortile, vide attraverso una finestra aperta il cappello d'un carabiniere e un paio di stivali appesi al muro di una cella, e nella memoria gli risuonò ancora l'aria della Gioconda: a te questo rosario. L'odor della cera vagava nel cortile solitario. Dov'erano i bimbi, compagni d'infanzia, gli uccelletti seminudi e selvatici che un tempo animavano i gradini della chiesa? Anania non desiderava di rivederli, ma con quanta dolcezza ricordava i giochi fatti con loro, mentre dagli alberi le foglie secche cadevano come ale d'uccelli morti. Una donna, scalza, con un'anfora sul capo, passò in fondo al cortile. Anania trasalì, sembrandogli di riconoscere sua madre. Oh, dov'era sua madre? Perché egli non aveva osato, pur desiderandolo, parlarne alla vedova, e perché questa non aveva accennato alla sua ingrata ospite. Per sfuggire ai ricordi amari, egli andò alla posta e inviò una cartolina illustrata a Margherita. Poi visitò il rettore e verso il tramonto percorse la strada che guardava sull'immensità delle valli. Vedendo le donne fonnesi che andavano alla fontana, strette nelle tuniche bizzarre, egli ripensò ai suoi primi sogni di amore. Quando desiderava d'essere lui un mandriano e Margherita una paesana, fine ed elegante, sebbene con l'anfora sul capo, simile alla figurina d'uno stucco pompeiano. Come il passato era lontano e come diverso dal presente. Un tramonto meraviglioso illuminava l'orizzonte, pareva un miraggio apocalittico. Le nuvole disegnavano un paesaggio tragico, una pianura ardente solcata da laghi d'oro e da fiumi purpurei, e sul cui sfondo sorgevano montagne di bronzo profilate d'ambra e di neve perlata, qua e là squarciate da aperture fiammanti che sembravano bocche di grotte e dalle quali sgorgavano torrenti di sangue dorato. Una battaglia di giganti solari, di formidabili abitanti dell'infinito, si svolgeva entro quelle grotte aeree. Balenava il coruscare delle armi intagliate nel metallo del sole ed il sangue sgorgava a torrenti, inondando le infuocate pianure del cielo. Col cuore balzante di gioia, Anania rimase assorto nella contemplazione del magnifico spettacolo finché le ombre della sera, fugato il miraggio, stesero un drappo violaceo su tutte le cose. Allora egli rientrò nella casa della vedova e sedette accanto al focolare. I ricordi lo riassalirono. Nella penombra, mentre la vecchia preparava la cena e parlava con voce tetra, egli rivedeva Zuanne dalle grandi orecchie, intento a cuocere le castagne, ed un'altra figura silenziosa e incerta come un fantasma. Dunque, hanno ammazzato tutti i banditi nueresi? Chiedeva la vecchia. Ma credi tu che passerà lungo tempo prima che nuove compagnie sorgano qua e là? Ah, tu ti inganni, figlio mio. Finché vivranno uomini dal sangue ardente, abili al bene e al male, esisteranno banditi. È vero che ora essi sono così cattivi, talvolta vili, ladroni e spregevoli. Ah, ai tempi di mio marito era altra cosa, sai, come erano coraggiosi allora, coraggiosi e benefici. Una volta mio marito incontrò una donna che piangeva perché. Anania si interessava mediocremente ai ricordi di zia Grazia, altri pensieri gli passavano per la mente. Sentite. Egli disse appena la vedova ebbe finito la pietosa storia della donna che piangeva. Non avete saputo mai nulla di mia madre? Zia Grazia era intenta a rivoltare una piccola frittata e non rispose. Ella sa qualche cosa, pensò Anania turbandosi, ma dopo un istante di silenzio zia Grazia osservò: Se niente ne sai tu, come vuoi che ne sappia qualche cosa io? E adesso, figlio, mettiti qui, davanti a questa sedia, ed accetta il buon cuore. Anania sedette davanti al canestro che la vedova aveva deposto sopra una sedia e cominciò a mangiare. No, disse confidandosi con la vecchia come non s'era mai potuto confidare con nessuno. Per lungo tempo io non seppi nulla di lei. Ora però credo di essere sulle sue tracce, dopo che mi ebbe abbandonato e la partì dalla Sardegna ed un uomo la vide a Roma, vestita da signora. Ma la vide davvero? Chiese vivacemente zia Grazia. Le parlò? Altro che le parlò, rispose amaramente Anania, e gli disse d'aver passato qualche ora con lei. Dopo non si seppe più nulla, ma io, mesi fa, la feci ricercare dalla questura e venni a sapere che ella vive a Roma sotto un falso nome. Però si è emendata, sì, si è emendata e adesso vive onestamente, lavorando. Zia Grazia era venuta a porsi davanti alla sedia e da misura che Anania parlava e la spalancava gli occhietti foschi e si curvava e trasaliva e apriva le mani come per raccogliere le parole di lui. Egli si rasserenava pensando a Maria Obinu. Quando disse «Ella ora si è emendata», provò un impeto di gioia, sicuro. In quel momento di non ingannarsi supponendo che Maria e Olì fossero la stessa persona. Ma sei sicuro? Ma sei proprio sicuro? Chiese la vecchia sbalordita. Ma sì, egli rispose imitando Margherita nel pronunziare quel sì lieto e un po' canzonatore. Ho vissuto 2 mesi in casa sua. Si versò da bere, guardò il vino attraverso la luce rossastra della lucerna di ferro e sembrandogli torbido lo assaggiò appena. Poi, nel pulirsi la bocca, vide che il vecchio tovagliolo grigiastro era bucato e se ne coprì scherzosamente il viso. Ricordate quando io e Zuanni ci mascheravamo? Chiese guardando attraverso il buco. Io mettevo sul viso questo tovagliolo. Ma che avete? Esclamò subito con voce mutata, scoprendosi il volto lievemente impallidito. Egli vedeva il viso della vedova, di solito impassibile e cadaverico, animarsi in modo strano. E dopo una profonda meraviglia esprimere la pietà più intensa e capì immediatamente che l'oggetto di questa pietà quasi violenta era lui. D'un colpo, l'edificio del suo sogno rovinò. Nonna, zia Grazia, voi sapete! Gridò con aria spaventata, stirando nervosamente il tovagliolo quanto era lungo. Ah, finisci di mangiare adesso, parleremo poi, figlio. Non ti piace quel vino? Ma Anania la guardò con rabbia e balzò in piedi. Parlate! Le impose. Ah, santissimo signore, si lamentò zia Grazia, sospirando e schioccando le labbra. Che cosa vuoi che io ti dica? Perché non finisci di cenare, Anania? Figlio caro, parleremo poi. Egli non sentiva e non vedeva più nulla. Parlate, parlate, voi sapete tutto, dunque. Dov'è? È viva? È morta? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Quel dov'è lo ripeté almeno 20 volte mentre s'aggirava automaticamente intorno alla cucina, piegando, spiegando, stirando il tovagliuolo, mettendolo sul viso, guardando attraverso il buco. Pareva un po' impazzito, ma più irritato che commosso. Calmati, cominciò a dirgli la vecchia, andandogli appresso. Io credevo che tu sapessi. Sì, ella è viva, ma non è la donna che ti ha ingannato fingendosi tua madre. Non è stata lei a ingannarmi, nonna. L'ho creduto io. Ella non sa neppure che io abbia supposto. Ah, dunque non è lei. Aggiunse con meraviglia, come se fino a quel momento fosse stato certo che Maria Obino era sua madre. Ma parlate dunque, esclamò poi. Perché mi tenete così sulla corda? Perché non mi avete parlato ancora di lei? Dov'è? Dov'è? Ma se non ha mai lasciato la Sardegna, disse la vedova, camminandogli sempre al fianco. In verità, io credevo che tu lo sapessi. Io l'ho riveduta quest'anno ai primi di maggio. Ella venne a Fonni per la festa dei Santi Martiri e conduceva un cantastorie, un giovine cieco, suo amante. Essi erano venuti a piedi da un villaggio lontano, da Neonelli. Ella soffriva le febbri di malaria e sembrava una vecchia di 60 anni. Terminate le feste, il cieco, che aveva guadagnato assai, abbandonò Olì per seguire una comitiva di mendicanti diretta ad un'altra festa campestre. So che ella, in giugno e luglio, fece la mietitrice nelle tancas di Mamoiada. La febbre la distruggeva. Stette lungamente malata nella cantoniera e ci sta ancora. Anania si fermò, sollevò il viso e aprì le braccia con atto disperato. Ed io l'ho vista! Gridò. Io l'ho vista! Siete certa di quanto mi dite? Chiese poi fissando la vedova. Certissima, perché dovrei ingannarti? E ditemi, egli insisté, ma c'è davvero? Io vidi alla finestra una donna febbricitante, gialla, terrea, con 2 occhi da gatto. Era lei? Ne siete certa? Certissima, ti dico, era lei, certamente. Ed io l'ho vista! Egli ripeté e si strinse il capo fra le mani, torcendoselo, preso da una collera violenta contro se stesso che si era così lungamente, così stupidamente ingannato, che aveva cercato sua madre al di là dei monti e dei mari, mentre ella trascinava la sua miseria e il suo disonore attraverso l'isola natia, che si era commosso davanti a tanti volti stranieri e non aveva sentito un palpito nello scorgere il volto della mendicante, della miseria viva di sua madre, incorniciato dalla finestruola tetra della cantoniera. Che cosa dunque era l'uomo? E il cuore umano? E la vita, l'intelligenza, il pensiero? Ah sì, ora che queste domande gli salivano non più oziosamente alle labbra, ora che la realtà batteva intorno a lui le sue ali funebri e squarciava i vapori dell'illusione, ora egli rispondeva alle sue domande e sapeva che cos'era l'uomo, il suo cuore, la sua vita. Inganno, inganno, inganno! A un tratto zia Grazia lo prese per un braccio e lo costrinse a sedersi, poi gli si accoccolò davanti, gli strinse una mano e lo guardò di sotto in su lungamente, pietosamente. Bambino mio, gli disse, piangi, piangi, ti farà bene come sei freddo. Anania strappò la mano dal morso duro delle mani della vedova. Ma perché mi prendete? Domandò offeso. Non sono un ragazzino io, perché devo piangere? Eppure ti farebbe bene, figlio. Ah, sì, io so quanto fa bene piangere. Quanto fu picchiato alla mia porta una notte, ed una voce che pareva quella della morte mi disse: Donna, non aspettare più. Io diventai di pietra. Per ore ed ore non potei piangere, e furono le ore più terribili per me. Mi pareva che il cuore dentro il petto fosse diventato di ferro rovente e mi bruciasse le viscere, mi lacerasse il petto con la sua punta acuta, ma poi il Signore mi concede le lagrime, ed esse rinfrescarono il mio dolore come la rugiada rinfresca le pietre arse dal sole. Figlio, abbi pazienza, siamo nati per soffrire, e cos'è mai questo tuo dispiacere in confronto di tanti altri dolori? Ma io non soffro. Egli protestò, dovevo aspettarmelo questo colpo, me lo aspettavo anzi, vedete? Sono stato spinto a venir qui quasi da una forza misteriosa. Una voce mi diceva, va, va, là saprai qualche cosa. Certo, ho provato un colpo, un po' di sorpresa, ma adesso è passato, non datevi pena. Ma la vedova lo fissava, lo vedeva livido in viso, con le labbra pallide e contratte, scuoteva il capo. Egli proseguì, ma perché nessuno mi ha detto mai nulla? Eppure qualche cosa dovevano sapere. Il carrozziere, per esempio, possibile che non sapesse nulla? Forse. Ella sola poteva farti sapere qualche cosa, ma no, ha paura di te. Quando venne qui per la festa con quel miserabile cieco che si fece condurre da lei e poi la abbandonò, nessuno qui la riconobbe, tanto sembrava vecchia, piena di stracci, stupidita dalla miseria e dalla febbre. Del resto, neppure tu l'hai riconosciuta. Il cieco la chiamava con un brutto nomignolo, soltanto a me la confidò il suo vero essere. Mi raccontò la sua triste storia e mi scongiurò di non farti mai sapere nulla di lei e la ha paura di te. Perché ha paura? Ha paura che tu la faccia mettere in prigione perché ti ha abbandonato. Ha anche paura dei suoi fratelli che sono cantonieri della ferrovia ad Iglesias. E suo padre? Domandò Anania, che non aveva mai pensato a questi suoi parenti. Oh, è morto da tanti anni, morto maledicendola. E Olì crede sia stata questa maledizione a perseguitarla. Sì, è lei che è pazza. Ma che ha ella fatto durante tutti questi anni? Come ha vissuto? Perché non ha lavorato? Egli sembrava di nuovo calmo e faceva le sue domande senza curiosità, pensando alle conseguenze di questo disastroso avvenimento. Ma quando la vedova sollevò un dito e disse solennemente: Tutto sta nelle mani di Dio, figlio, c'è un filo terribile che ci tira e ci tira. Forse che mio marito non avrebbe voluto lavorare e morire sul suo letto, benedetto. Eppure, è così di tua madre. Ella certo avrebbe voluto lavorare e vivere onestamente, ma il filo l'ha tirata. Egli si accese in volto e di nuovo contorse le dita e si sentì soffocare da un impeto di vergogna e di spasimo. Tutto è finito per me, dunque. Singhiozzò. Che orrore, che miseria, che onta! Ma raccontatemi dunque, ditemi tutto. Come ha vissuto? Voglio sapere tutto, tutto, tutto, capite? Voglio morire di vergogna prima ancora che... Basta! Disse poi scuotendo la testa come per scacciare via da sé ogni turbamento. Raccontatemi. Zia Grazia lo guardava con infinita pietà. Avrebbe voluto prenderselo sulle ginocchia, cullarlo, cantargli una nenia infantile, calmarlo e addormentarlo, ed invece lo torturava. Ma sia fatta la volontà del Signore. Siamo nati per soffrire e non si muore di dolore. Tuttavia la vedova cercò di raddolcire alquanto il calice amaro che Dio porgeva per le sue mani al disgraziato fanciullo e disse: Io non so raccontarti precisamente come ella visse e ciò che fece. So che ella, dopo averti lasciato, e fece benissimo perché altrimenti tu non avresti avuto mai un padre e non saresti stato fortunato come lo sei. Zia Grazia, non fatemi arrabbiare! Egli interruppe impetuosamente. Tranquillità, pazienza, gridò la donna. Non disconoscere la bontà del Signore, ragazzo mio. Se tu fossi rimasto qui, che avresti fatto? Forse avresti finito vilmente col farti anche tu frate? Frate mendicante, frate poltrone? Basta, non parliamone più. Meglio morire che finire così. E tua madre avrebbe seguito ugualmente la sua vita perché quello era il suo destino. Anche qui, prima di partire, credi tu che ella menasse una vita santa? Ebbene, no, era questo il suo destino. Ella aveva qui, negli ultimi tempi, un amante carabiniere che fu trasferito a Nuraminis. Pochi giorni prima della vostra fuga, dopo che ti ebbe abbandonato, almeno così la disgraziata mi raccontò, ella partì per Nuraminis a piedi, nascondendosi di giorno e camminando di notte, e attraversando metà della Sardegna. Raggiunse il carabiniere e la loro relazione continuò per qualche mese. Egli aveva promesso di sposarla, ma invece si stancò presto di lei. La maltrattò, la percosse e poi l'abbandonò. Ella seguì la sua fatale via. Mi disse, e piangeva, poveretta, piangeva da commuovere le pietre, che cercò sempre del lavoro, ma che non poté trovarne mai. È il destino, te lo dissi. Il destino che priva del lavoro certi esseri disgraziati, come ne priva altri della ragione, della salute, della bontà. L'uomo e la donna inutilmente si ribellano. No, avanti, morite, crepate, ma seguite il filo che vi tira. Basta. Ultimamente però ella si era emendata, si era unita con un cieco cantastorie e vivevano da 2 anni come marito e moglie. Ella lo conduceva per i paesi, per le feste campestri, da un luogo all'altro. Camminavano quasi sempre a piedi, qualche volta soli, qualche volta in compagnia di altri mendicanti girovaghi. Il cieco cantava certe poesie che egli stesso componeva. Aveva una bellissima voce. Qui, mi ricordo, cantò La morte del re, una poesia che faceva piangere la gente. Il municipio gli diede 20 lire. Il rettore lo invitò a pranzo. Raccolse in 3 giorni che stette qui più di 20 scudi ed era un'immondezza. Anche lui prometteva di sposare la disgraziata. Invece, quando la vide ammalata, che non poteva trascinarsi oltre, la piantò per paura che lo costringessero a spendere per curarla. Di qui partirono insieme e andarono alla festa di Sant'Elia. Là il cieco schifoso incontrò una compagnia di mendicanti campidanesi che dovevano recarsi ad una festa campestre nella Gallura e andò via con loro, mentre la disgraziata moriva di febbre in una capanna di pastori. Dopo, come ti dissi, sentendosi meglio, ella vagò di qua e di là, mietendo, raccogliendo spighe, finché la febbre l'atterrò del tutto. L'altro giorno, però, mi mandò a dire che stava meglio. Un fremito, invano represso, percorreva tutte le membra di Anania. Quanta miseria, quanta vergogna, quanto dolore, e che iniquità divina ed umana nel racconto della vedova.